Spina nel fianco, novità san. E quando scendo in campo do testate alla Zidane. Però sono un cestista, io mica gioco a calcio. Tu pensa fuori gioco che intanto io schiaccio. Schiaccio avversari, mira da serial killer oppure da sicari, tu schiacci le pastiglie. Ti faccio un crossover che perdi le caviglie. Risolvo lo scadere come Reggie Miller. Gioco alla McGrady, LeBron, Dwayne Wade. I numeri che faccio io, tu li fai la play. Guardi troppo NBA, ti senti rookie game. Ok, tu sei un rookie, io sono Dr. J. Come balli, come credi, poi la voce non la vedi. Showtime alla Magic, io sono tu, io sono baby. E quanto cremi nei playground di Torino. Amici del fiume, salto in testa un filippino. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Io calco tutti i campi, tu c'hai già i crampi. Spalla canestro e fadeaway jumping. Cado lì dietro, canestro più falli. È inutile che sgomiti, non basta fermare allarmi. Io me ne sbatto perché sono supersonico, flow come Seattle. Salto come un gatto, reattivo nello scatto. Non faccio lo sportivo perché sono sempre fatto. Sono un mega fatto con il flusso che spinge. Tiro con la mano in faccia da 6.25 cinghie. Per chi perde o chi vince, spingo più preciso quando il tempo stringe. Cosa ci vuoi fare quando esco da un blocco? Chiamare un raddoppio o cagarti sotto? Io ti capotto, ci rivediamo sabato. Che se non c'è l'arbitro, il canestro te lo sradico. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Gioco sul cemento, io tiro il controtempo, zio. Mi concentro e questo tiro attento mio. E mi sento Dio, novità calcio in box. Movimento in post da Kimo la Juonda. Fuori Eddie Jones, grazie, arrivederci. Spingo poi, vi mando a casa col palleggi. Sbeffeggi, ed è giochiamoci dei soldi. Che ti stampo in fronte, la scritta Spalding. Ball Edry, lezioni di palleggio. E quando sono in campo sembra quasi che galleggio. Polleggio fighette, per il campo col sette. E chi smette nel fianco saette. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Giochiamo su cemento, playground in plaza. Ovunque noi vinciamo perché ovunque siamo in casa. Nella partita, nella vita. Thank you.